24 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli. Alessandro si è preso una piccola pausa pasquale. Vi ricordo prima di tutto il numero 349-238-6666 in questo venerdì appunto prepasquale per mandarci i vostri messaggi SMS o i messaggi WhatsApp. Come vedremo oggi i giornali sono un po' monopolizzati in apertura da questa notizia della seconda mossa militare, chiamiamola così, fatta da Donald Trump, che ha sganciato questa bomba sull'Afghanistan. Afghanistan di cui da un po' di tempo non sentivamo più parlare. Ricordiamo tutti l'attacco lanciato da Bush, George Bush Jr., dopo circa un mese dagli attentati dell'11 settembre del 2001, e il primo bersaglio di Bush fu l'Afghanistan. E poi negli anni che sono poi trascorsi i riflettori si sono spostati su altri paesi. Intanto do il buongiorno ad Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, e a Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA, che sono con noi mattinieri oggi. E proprio vorrei forse partire da qui. Sono state dette tante cose e ovviamente non abbiamo tutti gli elementi per capire che cosa veramente abbia spinto Trump a prendere questa decisione. Sentiamo magari per iniziare, così poi da lì possiamo commentare, quello che ha detto Alberto Negri, che sicuramente al Sole 24 Ore è il giornalista con più esperienza all'estero, e ricordo proprio nei giorni dopo l'11 settembre, dopo l'attacco lanciato poi da George Bush, quanto cercò di spiegarci quel mistero che resta tuttora l'Afghanistan. Sentiamo che cosa ha detto ieri a effetto notte al microfono di Marta Cagnola sulle bombe lanciate da Trump. Non ci sono bombe o missili che possano riempire il vuoto di una politica. Ho l'impressione quasi che questa escalation militare e tecnologica sia un modo anche un po' appunto di riempire i vuoti di idee e in qualche modo di soluzione di grandi problemi anche complessi. Va bene dire che Assad se ne deve andare, lo dicono da 6 anni, ma hanno un piano questa volta? O dobbiamo ricordare cosa è accaduto in Iraq o in Libia? Ecco, io trovo appunto tutto molto inquietante. Ieri tra l'altro sentivo Eleonora Micheli che commentava l'andamento dei titoli in borsa. Guarda caso, ieri sono saliti tutti i titoli delle aziende che hanno in qualche modo a che fare con la produzione di armi. E Carla, comincerei da te. Che cosa hai sentito, provato alla notizia così breve, dopo così pochi giorni dal primo attacco, quello lanciato contro la Siria da Donald Trump? Sono desolata, come credo tutte le persone che seguono questo momento infelice. È troppo giusto, le parole che abbiamo appena sentito sono troppo giuste. Non ci sono bombe che possano riempire un vuoto di idee, un vuoto di politica, un vuoto di progetto. Trump si è presentato e ha vinto le elezioni alla presidenza della Repubblica senza un progetto costruttivo. È sempre stato un uomo contro e può essere soltanto un uomo contro. Tutte le cose buone che erano state fatte, ma non dico solo dall'amministrazione americana, ma in genere dal consesso internazionale, le sta sabotando. Parlo una per tutte l'accordo sul clima, perché l'uomo ha bisogno non di costruire, ma di attaccare, perché lui pensa al suo elettorato, è un elettorato non costruttivo, è un elettorato che lo segue solo se lui si lancia contro qualcosa. Devo dire questa volta che Dio ci assista, perché la situazione è più pericolosa di quello che noi possiamo immaginare. Ecco, Angelo Maria, credo che insomma siano queste paure condivise da molti, anche perché c'è stata subito in questo scacchiere così confuso, Trump ha lanciato questa bomba in Afghanistan e la Corea del Nord, alla quale molti dicono lui voglia lanciare dei messaggi, ha subito detto oggi noi faremo un bel test nucleare. Quindi è proprio come se fosse un po' tutto fuori controllo. Non si ha certo l'impressione che ci sia, come diceva Alberto Negri, una strategia dietro. Siamo a un'escalation molto preoccupante da parte di Stato, per esempio, aver perso il buon senso e la razionalità. E questa di Trump è più un'iniziativa mediatica, diciamo, perché questa super bomba è molto super negli aggettivi, nelle dimensioni, ma in realtà non produce effetti reali. Devo peraltro dire che qualcosa, immagino, nel quotidiano di tanto, cosa vogliono fare rispetto a questo ISIS irraggiungibile che colpisce con questa forza e con questa periodicità oramai martellante e che rispetto al nulla degli anni scorsi, probabilmente il problema di creare qualcosa nella strategia anche militare si ponga, e quindi non vorrei che non capire questa nuova strategia che più che di Trump e dei suoi alti gradi militari. Ecco, Carla, anche su questo effettivamente siamo stati un po' tutti stupiti, non che si debba avere conoscenza di tutti i membri del Partito Repubblicano, insomma è sempre difficile entrare nella politica di un altro paese, però siamo stati tutti stupiti da alcune scelte di Trump, il super consulente Bannon, che adesso è stato in parte messo da parte ma che si dice abbia ispirato questa strategia di Trump di sganciare bombe, ma anche tu parlavi prima dell'accordo sul clima, il fatto che abbia scelto per guidare l'EPA, che è l'agenzia per la protezione dell'ambiente, un giudice che ha sempre emesso sentenze contro gli ambientalisti. Quindi scelte che in qualche modo sembrano a questo punto avere una loro coerenza, però effettivamente sono preoccupanti, Carla, perché è proprio adesso cominciamo a vedere i risultati di queste scelte che molti avevano considerato allarmanti fin dall'inizio. Io credo che per capire questa situazione, che del resto non è nemmeno così complicata da capire, basti pensare che esistono persone che vogliono costruire ed esistono persone che si lanciano contro. Trump è una persona che non ha la leggenda che vuole portarsi dietro, cioè l'uomo che si è fatto dal nulla. Lui è partito da una situazione solidissima e familiare e ha avuto più sconfitte che affermazioni. Insomma, non è un cavaliere senza macchie e senza paura, mi viene da ridere perfino mentre lo dico. Ecco, è un uomo che dà il suo meglio distruggendo, opponendosi. Anche il suo programma televisivo aveva i suoi momenti di massima attenzione quando buttava fuori qualcuno. Certo. Quindi c'è proprio nel personaggio una modalità di rapportarsi al mondo in questo modo, e non è un caso neanche la scelta del suo avversario, perché lui ha scelto come avversario una persona che per certi versi gli somiglia, cioè il leader della Corea del Nord, una persona di cui tutti abbiamo timore senza capire quello che vuol fare, cioè tenere sotto controllo un mondo, il suo mondo, minacciare il mondo esterno. Dove stanno i momenti costruttivi sia della Corea del Nord sia, certo, dell'America? Tra l'altro volevo farvi sentire, perché mi ha fatto veramente effetto, questo audio in cui Trump definisce il lancio della bomba, che ricordo fu usata per la prima volta, era in realtà una versione meno tecnologica di quella usata ieri, fu usata per la prima volta durante la guerra del Golfo e all'epoca fu ribattezzata con un altro di quei nomi che uno dice ma come si può affiancare la bomba a un nome quasi semi poetico, veniva ribattezzata Daisy Cutter, cioè quella che taglia le margherite. E tra l'altro, Angelo, tu dici non ha fatto grandi danni. Sentiamo Trump che la definisce un evento di successo. Very, very proud of the people. Another successful job. We're very, very proud of our military. Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military, and it was another successful event. Ecco, un successful event, un evento di successo, e lui è molto proud dei suoi militari. Questo è tutto l'elaborazione che Trump ha fatto di quella che in realtà è stata una mossa politica. Angelo Maria, mi sembra veramente, come diceva anche Carla, che a forza di slogan e di frasi semplificatrici abbiamo un'immagine molto superficiale di, non so se lui lo è davvero, ma molto superficiale di come Trump prende le decisioni e poi le giudica dopo, ne giudica gli effetti. Sì, certo, ci sono delle riserve anche di natura psicoanalitica sull'uomo, questo non c'è il dubbio, come ci sono sull'altro, sul suo contendente. Devo dire peraltro che Trump risponde a ciò che l'altro ha combinato in questi anni con i suoi esperimenti nucleari, che ci hanno fatto tremare senza che nessuno osasse contrapporgli i visi. Parli di Kim Jong-il? Esatto, sì, in coreano. Mi ricordo anche, io sono abbastanza vecchio per ricordare come la pubblica opinione accolse Reagan con la sua famosa linea delle guerre stellari, che appunto dal un attore un po' narciso, si diceva anche allora, una pazzia, egli accentuò la linea di armare l'America puntando sulla quantità per mettere in ginocchio la Russia anche dal punto di vista dell'Unione Sovietica, anche dal punto di vista economico, militare, e ebbe successo quell'operazione di Reagan nello scetticismo originario di molti osservatori. Quindi, per carità, io non inneggio a questa follia, ma dico che il fenomeno Trump forse noi non l'abbiamo ancora del tutto compreso, anche se sospendo, diciamo, con tremore la mia valutazione davanti a questo rischio che coinvolge l'intero pianeta davanti a due capi di Stato che, ripeto, danzano sul precipizio e sembrano aver perso la misura e l'equilibrio. Sì, tra l'altro su questa questione di quanto un riarmo abbia anche appunto lo scopo di dissuasivo, ma anche di risvegliare l'economia, perché purtroppo quella degli Stati Uniti viene spesso definita un'economia di guerra, nel senso che cioè l'industria militare non è l'ultimo paese, anche l'Italia esporta moltissime armi, l'industria militare è una delle maggiori industrie del paese. E allora, a proposito di economie, speriamo che a nessuno in Italia venga l'idea di potenziare l'industria militare per agganciare quella ripresa che ancora in Italia non si vede rispetto ad altri paesi europei. Sentiamo cosa ha detto Padoan ieri, a margine dei commenti sulla manovrina che bisognerà fare quanto sta crescendo e quanto crescerà quest'anno e il prossimo il prodotto interno lordo del nostro paese. Quadro programmatico che prevede dopo l'1,1 del 2017 un tasso di crescita di 1.0 nel 18 e 19, essenzialmente dovuto all'impatto di una stance di politica fiscale particolarmente stringente, ma una ripresa di nuovo, una impennata verso l'alto della crescita nel 2020. Ecco, naturalmente tutti si dibattono su quali possono essere le voci che possono far ripartire l'economia. Carla, tu prima dicevi dell'accordo sul clima. Ecco, per esempio, l'economia legata alle energie rinnovabili potrebbe essere un volano, lo è stato sicuramente per esempio in Germania. Forse non se ne parla abbastanza, spero che non venga fuori il capitolo industria militare come volano per l'economia, però invece quello delle energie rinnovabili potrebbe esserlo. Potrebbe esserlo, ma siccome è una cosa di buon senso è difficile che venga attuata, perché in realtà quello che muove le azioni di governo, noi siamo molto più ragionevoli, voglio credere, io confido nel senso di misura e nella lungimiranza del Presidente del Consiglio, del Ministro della Difesa e anche del Ministro dell'Economia, ma la tentazione di dare uno scossone forte, cioè fare una cosa per cui io ordino missili, ordino aerei, ordino navi, ho detto la parola navi, non l'ho detta a caso, magari ci torniamo, è più veloce, cioè se io faccio una programmazione per muovere l'economia con una politica di controllo energetico, di energia pulita, faccio una cosa lungimirante che dispiega i suoi effetti nel tempo. Se io ordino cannoni, faccio prima, ecco, quindi non vorrei che ci fosse una tentazione per la scorciatoia, sarebbe veramente pessima come idea. Angelo e Maria, tu invece, secondo te, quali sono le cose di cui non si parla abbastanza che potrebbero in effetti riavviare l'economia del nostro paese, che ha infinite risorse di creatività, di know-how artigianale e industriale, oltre a parte appunto le energie rinnovabili, tutto il capitolo della cosiddetta green economy? Ma questo delle rinnovabili è senz'altro un asset straordinario su cui sta molto lavorando l'Enel, in particolare Enel Green Power. Mm-hmm. Quindi da lì penso che avremo delle novità, in particolare il legame tra energie rinnovabili e digitalizzazione, questo doppio asset che, su cui Enel si sta strutturando, potrebbe essere veramente una strada vincente. L'intero business plan di Enel è, diciamo, influenzato da questa nuova logica di abbandono del carbone e di svolta verso energie più pulite. Non credo che si punterà sugli armamenti. Noi abbiamo Finmeccanica sostanzialmente, che adesso, con una battuta potremmo dire, con l'arrivo di un uomo di sinistra come Profumo potrebbe non crearci allarmi. In realtà io non credo che in Italia si programmi alcunché, quindi non andremo a rafforzare i missili e le navi perché non programmiamo nulla, puntiamo sui numerini. E nel breve periodo è un po' come dice Andreotti, si sminuzza tutto e si punta all'1, qualcosa per cento in termini di Maastricht, di rapporti, di tutto. Ma non c'è una politica industriale in Italia e continueremo a non avercela. Mi pare che il cuneo su cui si sta lavorando è positivo, ecco, quello da lì potrebbe arrivare una spinta, sì, perché il cuneo previdenziale, certo, che riduce il costo del lavoro. Ricordiamo che l'Italia, insomma, ha mediamente 10 punti in più di cuneo fiscale rispetto agli altri paesi. Quello mi sembra intelligente, certo, come strategia, perché in effetti riduce un po' il costo e quindi incentiva chi ha voglia di investire a fare qualcosa, ma sì, ripeto, siamo nei parametri di Bruxelles. Ci lasciamo solo un attimo per una pausa sul traffico, ci ritroviamo subito dopo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Mattino. Ecco, ma lei, a differenza di Berlusconi, a Pasqua mangerà l'agnello? Sì, nel senso che è una tradizione familiare a cui non vengo meno. Io non amo moltissimo l'agnello. Credo che quando la politica arriva al punto di strumentalizzare anche le scelte personali, che rispetto, perché se uno è vegetariano o vegano merita tutto il nostro rispetto, però è anche vero che ciascuno deve fare le proprie scelte senza pensare di strumentalizzare con la politica anche il pranzo di Pasqua. Ecco, io questa parola strumentalizzare non è, può essere semplicemente che qualcuno prenda posizione e, anche se è un politico, lo dice. Non capisco perché strumentalizzare. In ogni caso, perché si presume comunque allora la cattiva fede di chi, Berlusconi, la Brambilla, tantissimi altri, hanno deciso di dire chiaramente che non mangeranno l'agnello a Pasqua. Naturalmente, Carla, chiedo prima di tutto a te, anche perché sei stata anche coinvolta in questa nel coinvolgere, appunto, scusate il bisticcio, il presidente della Camera Laura Boldrini in questa iniziativa di decidere che, appunto, forse questo sacrificio di così tanti agnelli in un così breve periodo di tempo, perché è tradizione, come dice Renzi, forse non è, forse si potrebbe almeno farci una riflessione. Ma io faccio un'analisi di questo tipo. Intanto, la parola strumentalizzare, detta da Renzi, che devo dire, la si ascolta con un qualche stupore. E poi cosa era accaduto? Che Berlusconi, spiazzando tutti, aveva fatto questa scelta. La Boldrini, allo stesso, anche lei, spiazzando tutti, aveva fatto questa scelta. A questo punto cosa fa un politico? Si accoda? No, non si accoda, e quindi fa una dichiarazione diversa, cioè dice di stare da un'altra parte. E ragioniamo anche sul fatto che Renzi ormai ha come punti di riferimento non l'innovazione in questo paese, come ha sempre pensato di proporre, ma l'appello a quello che lui chiama la tradizione, ma anche come ambiti culturali. Io dico una cosa, che in questo caso tutto andrebbe bene se si dicesse: lasciate che le persone siano informate, che poi facciano le loro scelte. E invece c'è sempre questo atteggiamento saputello, no? Come dire, sono quattro mattacchioni, chissà perché lo fanno. Io non credo che Renzi abbia detto una frase felice, e siccome le persone che rispettano gli animali sono in crescita, non credo che abbia fatto una mossa anche con una mossa di grande astuzia elettorale e di consenso. Ecco, tra l'altro chiedo a Angelo Maria, ma in realtà Carla, tu saresti la più informata su questo. Io ieri ho letto questa notizia, in realtà io l'ho letta sul National Geographic, ma so che voi l'avete rilanciata sul sito dell'EMPA, che Taiwan, ed è il primo paese asiatico a farlo, ha messo fuori legge il consumo di carne di cane e di gatto, e tra l'altro per chi violasse questo divieto c'è anche una multa abbastanza pesante, perché sono l'equivalente di 8.000 euro. E Angelo Maria, secondo te succederà anche qui da noi? Tu che magari hai un po' il polso anche gestendo un sito di degli umori, Carla ha ragione, lo dicono i dati, ci sono più persone che abbracciano lo stile di vita vegetariano o addirittura vegano, e quasi sempre le ragioni sono proprio di un rispetto degli animali e della natura nel senso più ampio del termine. Secondo te questo, perché adesso da noi io credo che in certe regioni i gatti si mangino abbastanza abitualmente, di cani non lo so, però ecco, divieti di questo tipo, magari appunto un divieto di mangiare l'agnello, secondo te potrebbero arrivare prima o poi in Italia? Ma potrebbe essere un gesto simbolico importante, molto utile, molto pedagogico in un paese in cui la cultura vegana e vegetariana è in crescita ma è ancora molto minoritaria ed è molto recente. E quindi quando Renzi, colto di sorpresa secondo me, si rifà alla tradizione, io l'ho visto un po' ansimante, un po' in difficoltà nel trovare la chiusa della sua frase, se ne è uscito con la tradizione di famiglia, però dice una cosa vera, quindi si usa l'agnello il giorno di Pasqua con assoluta regolarità e normalità. Quindi ben venga la svolta, Berlusconi ovviamente l'ha fatto come gesto mediatico anche lui, credo che Berlusconi più di tanto sia un animalista, anche se so che non ha mai amato la carne, devo dire. Però sullo sfondo, non voglio fare il benaltrista, ma ricordiamoci che a fronte della commozione che genera questa strage di piccoli, che sono gli agnelli, tutti i giorni gli animali vengono allevati con metodologie. Ma infatti credo che Carla si riferisse anche a questo, cioè quando si dice facciamo prima una bella informazione su come sono allevati, solo per essere di fatto uccisi poi per Pasqua gli agnelli, però tutti gli altri animali, i polli da batteria, perché producano appunto etti in più di merce da vendere, per la solita logica del consumatore unico che deve spendere. Ecco, è l'intero modello che dovrebbe essere messo sotto accusa perché siano svolte significative, però concordo che un gesto simbolico può arricchire questa cultura del rispetto degli animali, sulla quale ribadisco l'Italia è molto indietro. Ecco, sentiamo ancora Renzi, che poi invece ha aperto un altro scontro, quello con Michela Brambilla, che è nota per il suo impegno per difendere gli animali, in particolare i cani, e però si è sempre detta contraria al Palio di Siena, anzi vorrebbe abolirlo, e lì si tratta, secondo la Brambilla, ma non è la sola, di crudeltà nel trattamento degli animali. Sapete che ogni tanto qualche cavallo muore anche durante il Palio di Siena. Sentiamo ancora Renzi. Come quando la stessa deputata che ha aiutato Berlusconi in questa operazione di immagine, che si chiama Brambilla, ha proposto di abolire il Palio di Siena. Cioè, io penso che ci sia anche un limite ad alcune provocazioni. Ecco, abbiamo solo un minuto per commentare questo, però di nuovo, perché presumere che non ci sia della buona fede in Berlusconi in questa battaglia? Lo trovo da Renzi, veramente, forse ha ragione Carla, in difficoltà, spiazzato da questa, quindi insomma da tutti e due proprio in pochi secondi il vostro parere sul Palio di Siena. Io penso questo, che Renzi sia in affanno e quando parla inconsciamente riflette se stesso, usa la parola limite. È un uomo a cui si attaglia la parola limite, ditemelo voi, e cerca consensi laddove pensa di trovarli, un po' alla Trump in XVI, non Trump e non altri, ma insomma la gente pensa con la sua testa moltissimo. Io sono convinta che ha fatto benissimo per Brambilla, Berlusconi, Boldrini e chiunque si voglia mettere su questa posizione, che è una posizione di informazione e di scelta, gli altri arrancano. Ecco, Angelo Maria, tu come... Sono d'accordo con Carla al 100%, Renzi in affanno, dicevo prima, Renzi in difficoltà, Renzi che appunto rivela un legame con la cultura più antica di questo paese, e Renzi che si capisce che rispetto a queste formule è in gran ritardo e annaspa, deve rivedere un po' la sua strategia. È un po' sì, è il suo, diciamo, background culturale. Grazie mille a Carla Rocchi, Angelo Maria Perrino, buonissima Pasqua a entrambi, spero di risentirvi presto. Ci fermiamo ora per il GR, ci risentiamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti a 24 Mattino per questa piccola pausa pasquale che si è preso Alessandro, che tornerà poi settimana prossima, e cominciamo dal Sole 24 Ore come sempre, anche se poi avremo Mauro che ci spiega, Mauro Meazza, tra qualche minuto, che ci dà qualche indicazione in più su quello che dobbiamo religiosamente leggere sul Sole 24 Ore di oggi. L'apertura è diversa da tutti gli altri giornali perché questi sono i giorni in cui vengono presentati i dettagli del DEF e anche paventata quella che potrebbe essere la manovrina per fare quelle correzioni chieste da Bruxelles e tenere i nostri conti pubblici quanto più possibile in equilibrio, e quindi il Sole 24 Ore esamina per esempio quello che è emerso ieri, la novità di ieri, che è su questo misterioso patent box, non per Mauro Meazza e per i colleghi di Norme e Tributi, ma per la maggior parte di noi. In realtà è una misura che prevedeva degli sgravi fiscali per i redditi derivanti dall'uso di opere di ingegno e brevetti, e in Italia direi che di opere di ingegno ne abbiamo tante, anche soltanto insomma in tutte le aziende che lavorano, che fanno o creatività o innovazione, e però ci sarà una stretta a partire dal 2017, quindi restano valide per 5 anni le operazioni effettuate nel biennio 2015-2016. Poi c'è la notizia di FS che acquisirà ANAS e darà così vita a un gruppo da 10 miliardi. Vi segnalo, richiamata in prima pagina, l'intervista di Andrea Biondi e Marco Mele al direttore generale della RAI Antonio Campo Dall'Orto, intitolata "Con il tetto muore la libera impresa RAI". Il tetto naturalmente è quello ai compensi delle persone che lavorano per la RAI, che in quanto azienda pubblica è soggetta a questo tetto che dovrebbe valere per tutte le persone che lavorano nel settore pubblico. C'è grande discussione su questo, si dice che così i geniali conduttori, i conduttori di punta andranno alla concorrenza, tutto da vedere, però è questo, come vedremo anche su altri giornali, il tema di questi giorni. Vi segnalo anche un editoriale di Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, che si intitola "Se Wall Street è no fly zone". Ci si concentra sugli effetti che i venti di guerra hanno sull'andamento delle borse. Proprio tra l'altro ieri al Salone del Risparmio, io ho sentito stamattina in replica prima di venire qui, Deborah Rosciani ha proprio, interpellando alcuni consulenti, questa paura legittima che si può diffondere tra gli investitori per questi venti di guerra, per gli atti di terrorismo. Poi se si guardano, si vanno a vedere i dati, in effetti sulle borse nel medio, breve medio e medio termine ha avuto pochissimo effetto. Vi segnalo anche poi l'intero articolo, è a pagina 9, una inchiesta di Ilaria Vesentini sul cosiddetto reshoring, cioè la possibilità, legata anche a questa nuova fase dell'industria che viene chiamata industria 4.0, di riportare in Italia alcune produzioni, parte della produzione negli scorsi anni delocalizzata in altri paesi. Vi dicevo della questione dei compensi a chi lavora in RAI, e quindi passo un attimo solo al giornale, perché la copertina del giornale è dedicata proprio a questo, il titolo di prima pagina: Vespa, Fazio e Conti quasi fuori dalla RAI. Il CDA ha ufficializzato il tetto agli stipendi, solo il governo può salvarli. Sapete che si è discusso appunto di una deroga, come spesso succede in Italia, la legge c'è ma si prevede anche la deroga. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E in prima pagina però il giornale pubblica anche il lungo messaggio che poi in realtà ieri è apparso sul profilo Facebook di Silvio Berlusconi, di commento alla cessione del Milan, di cui avete sentito parlare anche nel GR. Alle pagine 2 e 3 del giornale sempre trovate tutto quello che desiderereste o forse non desiderereste sapere sui compensi appunto di questi personaggi che lavorano in RAI. quella che guadagna meno, però una volta era stato fatto un calcolo di quanto guadagna a minuto avendo una sola trasmissione, è Lucia Annunziata, 350.000 euro all'anno. Quelli che guadagnano di più invece sono Carlo Conti e Fabio Fazio, 2 milioni di euro all'anno, e sarebbero loro pronti a scappare. Scappare dove, però, non si sa bene, perché non si sa chi sarebbe disposto a dargli altrettanto. Il Corriere della Sera invece, come molti altri giornali, apre sulla decisione di ieri del presidente americano Trump di sganciare questa bomba, e qui viene usata questa parola bomba madre, questa espressione bomba madre, che trovo terrificante associare la parola madre alla parola bomba. In ogni caso la usano tutti, manifesto compreso, il che mi ha un po' stupito. L'analisi, trovate questa notizia alle pagine 2 e 3 del Corriere, con numerose analisi. Dalla prima pagina, in prima pagina poi addirittura una tripla fotonotizia, sono tre, o meglio un'unica notizia con tre foto, è quella del Milan, e le tre foto scelte dal Corriere della Sera sono quella in cui il 18 luglio del 1986 Berlusconi arrivò all'arena in elicottero per presentare la squadra. Da qui appunto il fatto che dopo 30 anni, dopo 31 quasi, Berlusconi era il 1986 quando acquisì il Milan, e ora ne è uscito definitivamente. Poi c'è una foto di Berlusconi circondato dai trofei, 29 in tutto, conquistati durante la sua presidenza, e poi c'è una foto di Yong-Hong Lee, che è il nuovo presidente del Milan, con al braccetto con la moglie in una cena dopo il closing con Berlusconi. La Repubblica, stessa scelta del Corriere, in questo caso la foto è quella di questo missile MOAB, e il titolo è Super bomba contro l'ISIS, la nuova sfida di Trump. Sganciati in Afghanistan, il leader americano, viene citata questa frase che abbiamo sentito anche nella prima parte di 24 mattino, dove Trump ha definito questo lancio di questa bomba un successful event, un evento di successo, e quindi ha anche detto appunto carta bianca ai militari. La Stampa invece, come fotonotizia, sceglie la notizia che avete sentito anche nel GR, quello della possibilità che ci sia vita su una delle lune di Saturno, cioè questa si chiama Encelado, si cerca di capire appunto se queste fonti geotermali potrebbero davvero consentire la vita come l'abbiamo conosciuta noi sulla Terra. Dando un'occhiata veloce alla Stampa sembra proprio questo, forse c'è vita sulla luna di Saturno. In realtà poi con un commento di Gianni Riotta al messaggio di Donald a Pyongyang, il titolo principale è attacco all'ISIS, Trump sgancia la superbomba. Stesso titolo praticamente per il Messaggero, Trump super bomba contro l'ISIS, anche qui c'è una foto di questo missile che, lo ricordiamo, purtroppo questa cosa della bomba madre sta nell'acronimo stesso, perché MOAB in inglese sta proprio per Mother of All Bombs, ma ditemi voi se ha un senso dare un nome del genere a un missile, la madre di tutte le bombe. In ogni caso c'è naturalmente la foto di questo missile con la punta gialla e la bandiera americana impressa sul lato. La fotonotizia vera e propria però è dedicata anche in questo caso al Milan, con un commento di Mario Aiello, fine di un'era. Il Manifesto ha una foto di Trump, una di quelle dove alza le mani con due dita in segno di vittoria, e il titolo è, come sempre, come spesso fa il Manifesto, un gioco di parole: USA bomber, quindi non una bomber, che era il criminale che appunto metteva bombe, ma USA bomber, e purtroppo, come vi dicevo, anche qui la madre di tutte le bombe. La GBU-43, 11 tonnellate di esplosivo, il più grande ordigno mai usato in guerra, è stata sganciata da Trump in Afghanistan alla vigilia della conferenza di pace in Russia. In prima pagina sul Manifesto anche un'altra notizia, che trovate anche sugli altri giornali, non con questa enfasi e non in copertina, tranne, come vedremo sull'Avvenire, naufragio con 100 morti in Libia, e l'occhiello è il cimitero del Mediterraneo, o meglio il Mediterraneo si conferma un cimitero. L'Avvenire apre proprio su questo calvario d'acqua, naufragio al largo della Libia, 97 tra virgolette dispersi, che purtroppo vuole dire morti quasi certamente, da gennaio, quindi siamo all'inizio ancora di aprile, da gennaio sono già 603 le vittime del Mediterraneo. ultima prima pagina prima di lasciare la linea per una pausa. Lettera a una professoressa, questo è il titolo dell'Unità e sapete che è anche il titolo di forse del libro più famoso di Don Milani, perché sono passati già 50 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani. Il suo principale interesse, il suo principale impegno fu proprio per la scuola, e questo dà lo spunto all'Unità per proporre due pagine di approfondimento sullo stato della scuola oggi. E l'Unità scrive: nella scuola ancora i problemi che lui denunciò. Ogni anno 50.000 ragazzi e ragazze lasciano i banchi e all'università abbiamo 20% di iscritti in meno. C'è una bella intervista di cui poi magari leggeremo una parte dopo, al maestro di strada Rossi Doria, che dice: per combattere l'abbandono bisogna partire dagli asili nido. E ci lasciamo però un attimo, come vi dicevo, per una breve pausa. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, sms o whatsapp. Alcuni sono molto critici e altri meno, è sempre bello vedere la varietà di opinioni. E soprattutto ringrazio gli ascoltatori che mi hanno segnalato che in realtà originariamente l'acronimo MOAB della bomba non è Mother of All Bombs, questo è un nickname, un soprannome che gli hanno dato i giornalisti prima in America e poi noi a seguire. Il vero significato è Massive Ordnance Airblast Bomb. E a chi mi dice che sono patetica nel definire inappropriato il nome di madre alla bomba, io invece ribadisco che lo trovo un nome, un nickname, appunto un soprannome orribile, ecco, diciamo così. Molto meglio Massive Ordnance Airblast Bomb, che ci dice esattamente che cos'è appunto questo ordigno. Abbiamo concluso la prima parte leggendo i titoli, e leggendo in particolare quello dell'Unità, che ricorda i 50 anni dalla morte di Don Milani. E vi segnalo un bellissimo articolo a pagina 3 dell'Avvenire che prende spunto proprio dall'esempio di Don Milani. L'esempio di Don Milani continua a essere attuale. In guerra o al supermercato ognuno di noi è responsabile. Obiezione, consumo critico, finanza etica. Ecco I care, che vuol dire a me importa, io ci tengo. È una espressione americana che possiamo appunto tranquillamente tradurre, ma che è secondo me molto efficace. Tutti sanno che dietro ai consumi si possono nascondere sfruttamento del lavoro, violazione dei diritti umani, degrado dell'ambiente. Sappiamo anche che dietro alle banche si possono nascondere commercio d'armi, fuga di capitali, riciclaggio di denaro sporco. Come non sostenere pratiche inaccettabili? A volte non spesso cadiamo in questa trappola di dire vabbè, ma tanto che differenza può fare? No, possiamo davvero fare una differenza. Il Fatto Quotidiano, che sorpresa, nonostante tutta questa notizia di Trump, che addirittura non c'è in copertina, si concentra sulla questione della Consip. Renzi ha definito il Fatto Quotidiano il falso quotidiano e il Fatto Quotidiano risponde con questo titolo: il falso quotidiano è Renzi. E poi fa un elenco che trovate a pagina 4 e 5 con ancora altri approfondimenti sul meglio del peggio, da Letta al referendum, dalla TAV al ponte, dall'articolo 18 ai vitalizi. Vi dicevo, non c'è in prima pagina del Foglio, non so, del Fatto, non so che ora chiudono, però la notizia è sicuramente arrivata in tempo per inserirla in una prima pagina di un quotidiano italiano. E in prima pagina di Trump si parla perché Assad ieri ha rilasciato un'intervista a una TV francese dicendo che non è lui il responsabile, non è il governo siriano, non sono i vertici siriani i responsabili di quell'attacco chimico del 4 aprile che poi ha innescato la reazione di Trump. La strage chimica è stata inventata da Trump, questo dice Assad, e l'articolo completo lo trovate a pagina 12 poi del Fatto. Libero, Silvio chiede la carità, un titolo molto critico sulla vicenda del Milan. Il cavaliere, stufo di scucire senza vincere, molla i rossoneri, ma è stanco anche di mantenere Forza Italia, visto che i parlamentari azzurri contribuiscono poco, questo è un fatto di cui si è parlato spesso in passato, invita gli elettori a destinare il 2 per 1000 al partito. Sapete che c'è questa possibilità appunto di destinare, tutti noi stiamo facendo la dichiarazione, oddio tutti, molti di noi, molti italiani stanno facendo la dichiarazione dei redditi in questi giorni e, o comunque la faranno nei prossimi mesi, c'è la possibilità di destinare il 5 per 1000 a una ONG, poi naturalmente la parte che invece va ai diversi culti, anche lì possiamo scegliere, e poi c'è questo 2 per 1000 ai partiti, che si può anche decidere di non dare a nessuno. Berlusconi ha invitato a darlo a Forza Italia. Sulla prima pagina di Libero, e poi trovate tutto a pagina 11, uno di quei confronti che fa Libero, mettendo appunto di fianco persone che magari sono per il sì a una questione o sono favorevoli e invece contrarie. In questo caso uno è il nostro, vostro Giuseppe Cruciani, che l'argomento è quello dei vaccini, obbligare la vaccinazione o no. Melania Rizzoli, che è una ex parlamentare di Forza Italia ma è anche un medico, dice sì, e invece Giuseppe Crociani dice i divieti non sono sostanzialmente, i divieti non sono mai la strada giusta. La Verità ha un titolo ancora diverso: lo Stato finanzia chi chiude le fabbriche. Il tema qual è? Quello della Simest, che è un'agenzia controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi un'agenzia statale, e La Verità ha questa lettura molto critica del ruolo della Simest, foraggia le aziende che investono all'estero. In effetti la Simest aiuta le aziende italiane a internazionalizzarli, basta che il cervello resti qui. Molti imprenditori spostano la produzione e licenziano gli italiani. Leggete l'articolo, alcuni dati ci sono, poi la questione secondo me è molto più complessa. Abbiamo visto anche sul Sole che in realtà è in atto anche il fenomeno opposto, cioè il reshoring deciso proprio dagli imprenditori. In prima pagina una questione che non so se c'è su tutti i giornali, magari qualcosa leggeremo anche dopo. E questa polemica letteraria alla vigilia, tra l'altro, del nuovo Salone dei Libri che si terrà a Milano dal 19 al 23 aprile, che si intitola Tempo di Libri, e è per il nuovo libro di Walter City, scrittore molto controverso, tra l'altro ha anche vinto il premio Strega. Il suo nuovo libro si intitola Bruciare tutto, è un romanzo e il protagonista è un prete pedofilo. Ieri è stato stroncato su Repubblica, oggi c'è chi lo stronca e chi no. Temo che sarà la polemica letteraria dei prossimi giorni. Vi segnalo anche, visto che Alessandro non è qui con noi, ma lo possiamo leggere sulla Verità oggi, perché racconta la storia di Max Ulivieri, 47 anni, disabile alla nascita, fondatore del Comitato per l'assistenza sessuale ai disabili, un tema di cui ha parlato anche di cui si è parlato in altre occasioni qui a Radio 24. Il titolo dell'intervista, che poi trovate a pagina 15, è Violo la legge per portare il sesso ai disabili, e credo tra poco ci sarà anche Mauro Meazza con noi. Prima di dargli la parola, l'ultimo titolo che vi leggo è quello del Giorno, la fotonotizia è Berlusconi, l'ultimo campione, fine di un'era. E poi c'è la rubrica che è sulla prima pagina del Giorno di Vittorio Sgarbi, che mi riservo di leggervi dopo perché è dedicata a Morgan, che ha lasciato Amici, adesso Mediaset gli vuole anche fare causa e verrà sostituito da Roberto Saviani. Molto divertente, poche righe, ma prima do la parola a Mauro Meazza. Oh, buongiorno Giulia, ti ringrazio. Sono più o meno quasi le due, no? Le due meno un quarto, in questo momento, nel senso che io oramai viaggio col fuso orario di Pechino e quindi faccio un po' fatica a regolarmi sul vostro, su quello italiano. So, ti ho già ascoltato parlare con dovizia perizia del bonus fiscale sui marchi, del patent box, quindi no, parole non ci appulcro, come dice il poeta. Trovate tutti i particolari oggi a pagina 3. Segnalo che qui la stretta era un po' attesa perché purtroppo l'Ocse, che è la madre del patent box, ha detto che non si poteva agevolare i marchi, c'era un'ultima finestra, l'abbiamo sfruttata per quanto possibile. Ora questa si è chiusa. Invito a meditare però sull'analisi che trovate sempre a pagina 3 di Gianni Trovati, che ci dice che comunque resta su di noi, incombe su di noi l'ombra della clausola di salvaguardia, sono diversi miliardi che si ripresenteranno in autunno, bisognerà decidere che fare, aumentare l'IVA o non aumentarla, ma lo scopriremo solo vivendo, come dice il poeta. Ma naturalmente anche oggi Zhong Jiao, sai cosa significa Zhong Jiao, Giulia? In cinese? No, dimmelo. Sono sicuro di averlo pronunciato malissimo, ma un gentile mio follower, come si dice su Twitter, mi ha detto che così si dice religiosamente in cinese. Quindi io, sperando di non avere pronunciato nulla di irriferibile o che causi anche le proteste dell'ambasciata, dico Zhong Jiao oggi su Norme e Tributi, religiosamente oggi su Norme e Tributi, trovate ancora degli approfondimenti e anticipazioni su questa manovrina, che come tu hai giustamente ricordato non ha ancora un testo definitivo, lo stiamo limando e componendo, ma importante, attenzione, si possono cumulare le sanatorie tra le liti e le cartelle. Non so se tu riesci a seguirmi su questo, sicuramente molto più di quanto farebbe Alessandro. Pensa che è io ho gli incubi sul ricevere, quando vedo quelle buste verdi o anche se solo magari di una multa che mi sono dimenticata di pagare, io ho l'incubo delle... Ma no, devi prendere la cosa serenamente, soprattutto leggere Norme e Tributi. Okay. Vedrai che questo ti rilassa anche, ti aiuta. E poi, già che siamo in argomento, ti segnalo lo split payment. Eccolo. E purtroppo mi tocca parlare con questi termini inglesi, io li preferirei ovviamente a questo punto in cinese, ma lo split payment, cioè questo meccanismo di scissione del pagamento per l'IVA, che comporterà anche un cambiamento per le fatture. Come bisognerà fare le fatture? Lo spieghiamo oggi, Zhong Jiao su Norme e Tributi, naturalmente, religiosamente su Norme e Tributi. Un'ultima cosa per qui Radio Fisco, abbiamo il dato del TFR, dell'aggiornamento del TFR di marzo. Tu e io non seguiamo più di tanto la materia, ma ti assicuro che ci sono fior di professionisti che attendono questo numeretto, che è essenziale poi anche per i nostri accantonamenti, cara Giulia. E poi volevo solo dirti, se c'è da leggerlo, direi di leggerlo sul Sole, questa questione dell'Alitalia che è richiamata in prima pagina, no? Abbiamo il nostro super esperto Gianni Dragoni. Ah, certamente, e poi guarda lì prosegue, ma dovrebbe esserci stata una composizione proprio innottata, come è d'uso sempre nelle trattative sindacali più controverse, oggi presentiamo, come dire, le difficoltà per questo closing, che è stato molto più difficile di quello naturalmente del Milan, che già comunque ha preso un paio d'anni, e la situazione soprattutto critica per quanto riguarda la cassa, come ricordiamo su Finanza e Mercati proprio questa mattina. Ti voglio segnalare una buona notizia, perché potrà partire un meccanismo di sperimentale per ora di tirocinio nelle aziende per i rifugiati. Ne parliamo proprio oggi sul Sole 24 Ore. È stato firmato un accordo tra la Confindustria e il Ministero degli Interni per favorire l'integrazione. I punti dell'intesa sono descritti da Nicoletta Picchio e anche da una scheda, da un'ampia serie di schede, proprio nella pagina del Sole 24 Ore, nella pagina 6 del Sole 24 Ore di oggi. Ho visto un articolo di qualcuno che deve essere tua parente, perché si chiama Giulia Crivelli, nelle pagine di Moda 24, perché oggi, essendo venerdì, naturalmente c'è Moda, e parla di sbarchi in Cina e negli Stati Uniti per un'importante azienda italiana, quindi diciamo tra due motivi di vanto, il reshoring da una parte, di cui hai parlato, quindi non mi soffermo ulteriormente, ma anche le aziende che vanno all'estero e che sbarcano su mercati importanti come gli Stati Uniti, ma soprattutto la Cina, che oramai è nel mio cuore. Domani, vi ricordo, alle 18:30 ora di Pechino c'è il Delby, e quindi il primo Delby cinese tra l'Intel e il Milan. E naturalmente tutti i particolari di questo sospirato closing, che era così atteso, li trovate sul Sole 24 Ore nelle pagine di Finanza, perché è un'operazione finanziaria importante, 740 milioni mi pare tra tutto, e quindi domani ore 18:30 ora di Pechino, se viaggiate ancora con l'ora italiana, vabbè 12:30, però lo dico proprio a beneficio di chi ancora non si fosse adeguato. E a questo punto, Giulia, che dirti? Io ti saluterei con l'abituale grido, naturalmente faccio a Peter e a Lorenzo, che so che sono, come dire, per un'altra squadra e non la mia, tanti cari auguri per domani alle 18.30, ora di Pechino sempre, e invece a te tanti cari auguri, a te gli ascoltatori, di una buona e serena Pasqua. E a questo punto si impone. Traffico! Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta... mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti a questa ultima parte della nostra rassegna stampa, poi lasceremo la parola a Oscar Giannino, che avrà come ospite tra l'altro il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Vi segnalo, ringrazio veramente tutti gli ascoltatori che si prendono la briga di mandare un messaggio o WhatsApp o SMS al 349-238-6666, e siccome ce n'è uno in particolare che dice: ma come, oggi non ha ancora parlato male dei 5 Stelle, non voglio parlarne male, però vi cito a proposito di 5 Stelle la intervista che Alessandro Trocino fa a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e esponente di punta del Movimento 5 Stelle, alcuni lo danno anche come possibile candidato premier in un governo 5 Stelle, se i 5 Stelle appunto dovessero vincere le prossime elezioni politiche. L'intervista è intitolata "Io non cerco gli applausi dalla Lega, Casaleggio premier è fantacalcio". Vi leggo due domande e risposte che mi hanno particolarmente colpito, perché si parla anche della questione della RAI. Gli chiede Trocino: se toccasse a voi, come scegliereste il direttore del TG1? Risposta: i partiti non possono decidere i direttori, serve un meccanismo meritocratico. Aggiungo io: sono assolutamente d'accordo, ma c'è una virgola, e Di Maio aggiunge: magari ricorrendo a un sorteggio tra i migliori del paese. Non capisco come la parola meritocrazia possa andare d'accordo con la parola sorteggio. Comunque questa è la risposta di Di Maio. Poi sulla questione dell'euro, qui Di Maio svicola decisamente, perché gli viene chiesto: il Movimento 5 Stelle non propone di uscire dall'Europa, ma una riforma che consenta un referendum sull'euro. Risposta: noi non seguiamo la moda della Brexit. Notarsi che la Brexit non ha niente a che vedere con l'euro, perché la Gran Bretagna non è mai entrata nell'euro. Vogliamo un nuovo regolamento per le quote degli immigrati e il reddito di cittadinanza europea. E Trocino insiste: sa che non si può uscire dall'euro senza uscire dall'Unione Europea? E Di Maio risponde: non è codificato. Ma stiamo scherzando, è un articolo della Costituzione che dice che l'Italia non può violare i trattati internazionali, ed è questo, è un trattato internazionale che istituisce l'Unione Europea e il fatto che l'Italia ne faccia parte. E ancora Di Maio: uno Stato sovrano può uscire dall'euro, poi decide l'Unione Europea. E sempre dal Corriere, e non vi leggo Sgarbi perché già sono stata troppo polemica su questo e in realtà sono sempre combattuta. Da una parte appunto ci sono cose che, come alcune di queste risposte, che così come a volte in realtà sono d'accordo con Di Maio, ma queste risposte in realtà mi hanno fatto un po' zare. Non è l'intero articolo però che mi ha fatto zare. E vi leggo, per distendere un pochino invece gli animi, "Vita perfetta alla svedese", un bel pezzo di Paola De Carolis che ci racconta come appunto in Svezia, lo si dice sempre nei paesi scandinavi, ma in particolare forse in Svezia, forse a parte il tempo, si vive molto bene. Moderazione a tavola, sul lavoro, nel vestirsi. Dal nord la nuova ricetta della felicità. E c'è questa bellissima parola intraducibile dallo svedese che è lagom, che significa nella giusta dose, né troppo poco. A proposito di cinesi, un altro approfondimento sul fatto che saranno 150 milioni i turisti cinesi, perché viaggiano sempre di più e amano moltissimo l'Italia, anche se magari ne hanno solo sentito parlare o hanno solo visto magari qualcosa su internet, qualcosa o molte cose, e verranno sempre più numerosi in Italia. Naturalmente la nostra abilità sarà nell'accoglierli e nel non spennarli, come spesso si fa con i turisti nel nostro paese. Tutta l'avvertenza all'Italia naturalmente la trovate su tutti i giornali, ma come diceva Mauro probabilmente ci sono stati degli sviluppi nella notte, quindi tanto vale poi aggiornarsi con la cronaca, e sicuramente nei GR di Radio 24 lo si farà. Vi segnalo da Repubblica un reportage di Marco Ansaldo dalla Turchia, perché sapete che domenica c'è un voto molto importante in Turchia di cui forse non si parla abbastanza, che è quello per il referendum che darebbe più poteri, modificherebbe la Costituzione turca e darebbe più poteri a Erdogan, al presidente Erdogan. Non consegniamo la Turchia a Erdogan, l'ultimo canto per il no. 55 milioni appunto di turchi andranno a votare domenica. Vi segnalo poi sulla stampa due pagine intere su questa notizia per chi è appassionato così delle esplorazioni spaziali, sul fatto che un mezzo della NASA abbia segnalato che su una luna di Saturno ci potrebbe essere la vita. E poi sempre per, anche se insomma ci sono ascoltatori che naturalmente non gradiscono questo tipo di notizie, ma pazienza, non si può piacere a tutti né si deve piacere a tutti, come diceva la mitica Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia, scomparsa prima di Natale, questa notizia che vi segnalo dalla stampa è un approfondimento di Paolo Peirone, che tra l'altro è uno dei più importanti architetti di giardini italiani, ci parla del mughetto, che è proprio il tipico fiore primaverile. Tra l'altro ho scoperto di recente che il 1° maggio è in Francia, è tradizione regalarlo alle donne. Cercano l'ombra i magici mughetti capaci di far tornare la memoria. Invano Maria Carolina, regina delle due Sicilie, cercò di coltivarli nel suo giardino di Caserta, ma appunto i mughetti amano l'ombra. A proposito di notizie che magari ci sono solo su alcuni giornali, il Messaggero ha un approfondimento su questo recente rapporto di Scotland Yard, cioè la polizia inglese, che dice che c'è un boom di reati a Londra, molte più rapine, molte più anche episodi dove si usano le pistole, e questo sarebbe colpa, secondo Scotland Yard, del taglio che è stato deciso appunto ai corpi di polizia. I reati commessi nel Regno Unito nel 2016 sono stati 774.000, in aumento del 4,5% rispetto al 2015. Un articolo molto divertente sulla Verità, un'intervista di Luca Giampieri a Piero Rocchini, che è un neurologo ma anche psicologo, a quanto appunto si scrive in questo articolo. Non si capisce se bene se psicologo o psichiatra, forse entrambe le cose. Si può essere appunto voler curare il disagio psicologico con la parola o con l'aiuto dei farmaci. In ogni caso, lui è stato per molti anni lo psicologo dei deputati, riceve tanti trombati e anime in pena. I politici afflitti dall'ansia del parvenu hanno l'angoscia di perdere il potere. Ultimissima segnalazione, perché sapete che io sono una gattara, divertente articolo su Libero di Gianluca Montanino: in TV le gare di cucina per far felici cani e gatti. E qui davvero non lo so se i miei gatti hanno bisogno di esseri umani che cucinino per loro. In ogni caso, i programmi che saranno su Sky 1 si chiamano Kitchen Bao e Kitchen Miao, un programma per i palati degli amici a quattro zampe. Ultima segnalazione per oggi, aspetto messaggi di critica naturalmente. Grazie a Lorenzo Nespoli in redazione, grazie a Peter Bescapè in regia. Come vi dicevo, dopo il GR ci sarà Oscar Giannino con questo mega ospite, potremmo dire, Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, e noi ci risentiamo per la rassegna dei giornali italiani domenica.